Questa di Barisoni è la storia vera. Ritardò altri 3 minuti quella sera. E Cruciani senza censura, a muso duro, lo mandò serenamente a fare in culo. E noi tutti con la classe di Locascio, te dimo Barisoni, ha rotto il cazzo. Allora, siamo Cruciani e Parenzo, siamo due signori che lavorano alla radio. Conosci le radio? Confindustria. Ho capito, tu sei quello che fa le... ho capito chi sei. Lei conosce la Confindustria? La zanzara, no? Bene, ottimo, ottimo, vedi che ci arriviamo alla fine. Con calma, con tranquillità. Eccoci qua, senza aggressività. Con calma. Conosci Alfredo Santamato? Mai cacato. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È ritornato lui, è tornato il camionista che io chiamo, com'è che si chiamava questo? Quirino, signor Quirino. Quirico, Cruciani, Quirico, no Quirino. Quirico, scusami. Per cazzo. Ma com'è? Un giorno che fanno schifo, un giorno vanno bene i rom. Chiudiamoli i campi rom. Allora io ho fatto una domanda, fatta tanto tempo fa. Quirico, è una domanda, io ho un sacco d'amici ebrei. Prima di tutto, grandissima testa di cazzo internazionale. Non mi interrompo. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Buonasera. Come rompe i coglioni questo, mamma mia. Allora la posso fare una domanda? La posso fare? Come mai tutti quanti ce l'hanno con i fratelli ebrei nel mondo? Come mai tutti quanti ce l'hanno con i fratelli rom nel mondo? Sono bravi, io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo, e bravo, e bravo. Parenzo, a coglione, mi fai parlare? Fammi parlare, allora è facile parlare lì col culo seduto sulla sedia, tra parentesi chiacchierato come il tuo, roscio che non sei altro. Naturalmente. Lo sai David che io ieri sera mi sono quasi sentito male, e sì, quando ho visto scoppiare d'ira il professore, il maestro sommo, maestro. L'unica vera guida beh, che abbiamo noi in testa. Adesso per te no, per me sì, c'è una guida. No, è una delle guide sicuramente, ma adesso voglio dire, non è l'unica vera guida, io mi appoggio anche ad altri maestri, diciamo, oltre al professor Sgarbi. Allora, ieri quando l'ho visto a un certo punto impazzire completamente al programma di Formigli, mi sono sentito quasi male perché pensavo che davvero che potesse scoppiare, che potesse prendere il classico coccolone, come si dice, no? Perché a un certo punto quello che sentirete fra poco è che tutto succede all'improvviso, con uno scatto. Si parla delle vicende di Berlusconi, De Gregorio, lì la compravendita dei parlamentari e poi della mafia in Sicilia, tutti questi coglioni qua. E a un certo punto improvvisamente impazzisce. Sul piano dialettico devo dire che l'impostazione del tuo programma è vomitevole. Grazie. Perché l'intervento di Gomez ha indicato una motivazione di una sentenza di primo grado, che quindi non vuol dire nulla, non di meno. No, dillo, scusami, no, su questa cosa ti deve preparare. Posso parlare? O no, mi dovete rompere il cazzo? Calmati. Con la mia dialettica, Gomez, devo stare a ascoltare. Posso parlare? Posso parlare? Puoi parlare? Posso parlare? Grazie. e il Senato ha registrato che il signor De Gregorio è andato nel centrodestra nel 2006. Non c'era bisogno di comprarlo. Vittorio, questa sentenza ti ho fatto un'altra domanda. Farlocca, Vittorio, come tutto quello ti ho fatto sto rispondendo sul piano. Ma vuoi farmi parlare, porca puttana? Sul piano dialettico ti sto dicendo, continuate. Queste persone sono innocenti perché non hanno condanne definitive. Nell'ordine di quello che avete detto introducendo questa vomitevole trasmissione. Dai, cioè, però Vittorio, ho capito che devi fare il personaggio, però io ti ho fatto un'altra domanda, se vuoi rispondere seriamente bene, se no non fa niente. Dico che il figlio non mi interessa, di un ho fatto un'altra domanda. È un innocentissimo. Ti ho fatto allora, non puoi dire quello è fratello. Mi fai parlare, porca puttana! Vuoi farmi parlare? Con la tua inutile volontà di interrompere. Stai parlando. Sto dicendo soltanto che tu. Il fratello calmati, è il figlio di qualcuno, non è colpevole. Se un candidato risulta da un'intercettazione abbia detto in questo quartiere è meglio se comanda la mafia, tu lo candideresti oppure no? Certo che lo candiderei, perché con quello che perfetto, fa una giustizia perfetto, che cerca perfetto, la mafia dove non c'è, quella è solamente una mafia. L'Italia è sempre sputtanata da voi e dalle trasmissioni in cui si umilia l'Italia, perché siccome il signor Fallon per una toccata di coscia se n'è andato via dopo 17 anni, poteva farlo prima, diventa per Caprarica un riferimento. Se ne fosse andato 17 anni fa, altro che queste stronzate del sesso del cazzo che viene usato per umiliare i candidati italiani che queste cose non hanno mai fatto, neanche Berlusconi. Non c'è una ragazza che denuncia una toccata di coscia. Fatte, Vittorio, no. Vabbè. Ti dirò di più, aspetta, ti dirò di più se me lo fai dire, che quello che ha detto Cuffaro vuol dire che se Caino uccide, tu non è che non candidi Abele, se Caino uccide non è che non candidi Abele, se Caino uccide no, quindi no, chiaro, il fratello va candidato. E nessuno questo, tocchi questo Caino, è... ti dice Pannella, quindi non rompete il cazzo questo è... allora, con delle teorie contro la Sicilia. Allora, la realtà è che Sgarbi sbrocca sbrocca quando viene interrotto, questo è il punto. Cioè, quando lo interrompi. Mi fai finire! Ma quando viene interrotto, sbrocca totalmente. Allora, Peter Gomez, che è il direttore del Fatto Quotidiano.it, a un certo punto ieri dice: se mettiamo Berlusconi nelle liste, uno domani potrebbe mettere in lista Totò Riina. Adesso, francamente, cioè, Berlusconi in lista per no, per... è come paradosso, cioè l'idea di una sì, persona condannata con sentenza definitiva passata in giudicato. Ma ho capito, ma non ci può andare, ma non ci può andare tanto comunque in lista, per cui di che parliamo? Non è no, che è la stessa cosa mettere Totò Riina che c'ha gli ergastoli per mafia perché ha sotterrato le persone e Berlusconi, dai, su, non diciamo no, cazzate. Per dire ma perché devi sempre salvare? È una cazzata questa. È un'iperbole che tu dovresti invece apprezzare, sì, visto che questa nostra trasmissione è fondata sulle questa nostra trasmissione è fondata sulle ma non mi interessa chi l'ha detto, mi fai parlare, non mi interessa chi l'ha detto, non mi interessa, mi fai parlare è un ottimo espediente. Poteva dirlo chiunque, poteva dirlo financo Di Maio una cosa simile, che è una cosa troppo intelligente da dire per Di Maio, però voglio mi fai parlare porca puttana mi stai interrompendo Gomez, è meraviglioso. Era stato presentato un emendamento perché si impedisse a chi è incandidabile di fare il capo della forza politica, perché chi è capo della forza politica può mettere il nome sulla scheda, e con voto contrario anche dei suoi teorici avversari del Partito Democratico si è detto no, Berlusconi lo può mettere anche se incandidabile. Chiaramente questo ha degli effetti in teoria perversi, perché un domani una lista potrebbe persino mettere Totò Riina. No, ma mettere il nome sulla lista, ma qual è il problema se metti il nome sulla lista? Non ho capito. Ah, tanto... certo, il nome sulla lista, ah, chiaro. Sì, allora, vi faccio sentire questa cosa straordinaria di Lucci, che a Nemo va a una convention del Partito Democratico. Cioè, questi sì. Non rispondono, è solo lui che parla. Allora, Lucci e Realacci, sai Realacci che è Partito Democratico? Ermete, Realacci, non lo sa chi è, comunque un esponente del Partito Democratico. Male, senti che presidente dice. Della Lega Ambiente, sì, ma senti male che dice, non senti sapere che dice, chi è. Senti che gli dice. Voi del PD avete indubbiamente un problema di look. Se uno te guarda, è venuto meglio Pinocchio con la sega che tu una trombata. Però a parte questo, dovete stare attenti. Lascia perdere la mia mamma. Poi a un certo punto a Fioroni. Senti con Fioroni, senti a Fioroni, signor Fioroni. Non trovo più l'altra telecamera. Ma non è ta se magnata te? No, io questo è naturale. Ma c'è pure l'obiettivo. No. Che grasso. A un certo punto con Franceschini, senti Franceschini, senti con Franceschini, ministro Franceschini. Tu invece di parlare di cultura, di musei, dovresti aprire più cinema porno, per esempio. Fai cinema porno e discoteche dove ci si ammazza e ci si droga. Questo dovete fare, lascia perdere la cultura. È la conferenza programmatica perché non interviene. E su questo non ha manco tutti i torti. Certo, ha ragione. Ma come ha ragione? Lo dici tu che ha ragione, non ho capito. Ha ragione, no, che bisogna ragione, aprire, bisogna ha ragione, aprire più. No, ha ragione Franceschini a dire la conferenza programmatica, vieni e porta la tua idea compagno, questo è giusto. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Curiciani, tu sei proprio così. Sei l'uomo che vuole la donna che fa squirting. Tu sei il primo stronzo che usa le donne. Dai, cazzo, senti chi parla. Se sei tu che tratti bene le donne, allora siamo messi bene in Italia. Tu che ti piace nelle puttane. Cioè, ma lascia perdere, sei un coglione davvero. Allora, questo qua è un arabo che si riferisce ovviamente alla puntata di ieri, dove è intervenuto quell'avvocato egiziano che ha detto che è dovere nazionale stuprare una donna che è vestita con abiti succinti, che è una vergogna. E il fatto che io abbia difeso ieri ovviamente le donne che sono state attaccate da questo signore, da questo deficiente, da questo pezzo di merda egiziano, non vuol dire nulla. Cosa c'entra che sono a favore della prostituzione? Cosa c'entra? Non è che... No, dovresti difendere anche Asia Argento con la ma stessa cosa foga. C'entra? Ma sono cose diverse! Ma sono cose diverse! No, non sono diverse manco per niente invece, sono esattamente uguali, perché ma Asia Argento ha denunciato di aver subito ma una violenza, vabbè. Certo, non brutale come vabbè. Abbiamo detto più volte. Fermi tutti, no, fermi tutti. Dice, ma fermi niente. No, fermi tutti, è intervenuto Giulietto Chiesa è tornato a parlare della legge, del Rosatellum, della legge elettorale, scusate se pronuncio questa parola, questa bestemmia, il Rosatellum, dicendo che se Mattarella la firma, ma ha già firmato, è passibile di alto tradimento Mattarella. Voglio essere chiaro, un Presidente della Repubblica che firmasse questa legge sarebbe passibile di alto tradimento della Costituzione. Chi si assume questa responsabilità si assume la responsabilità di violare la Costituzione. Evoca uno scenario autoritario, un Parlamento illegale. Ma neanche i 5 Stelle lo dicono. È uno scenario autoritario, non lo si può definire diversamente, che non ha nulla a che vedere con la democrazia. È una legge che costituisce un nuovo Parlamento illegale. No, ma in realtà è la stessa cosa che dicono i 5 Stelle. No, ma non, uguale, non uguale, dicono identico. Così del capo uguale, dello Stato, uguale, non è vero. No, sul capo dello Stato no, ma insomma uguale, dai. Marco da Milano, vai Marco. Buonasera, io volevo parlare. Ciao direttore, buonasera. Con i Rom, mi è capitato un episodio. Non ho capito, scusa Marco, scusa che si è sovrapposto quel cretino, scusami Marco, dimmi. Volevo raccontare un episodio che mi è successo qua in città dove abito, a proposito dei Rom. Sì, dimmi. Quando mia madre un pomeriggio era in casa, la porta era aperta, questa è entrata, ci ha rubato in casa, sì. E poi niente, scappando mia madre è riuscita a urlare, la danno acchiappata e niente, giustificandosi poi con la polizia diceva ma chi? Sono i miei genitori, questa Rom? La Rom, sì, diceva sono i miei genitori che mi fanno fare questo, noi viviamo di questo, per favore lasciateci andare, no? Allora? Niente, però mi fa ridere quando Parenzo dice che il furto non è una cosa che è incita nell'etnia dei Rom, ma è una cosa presa dai singoli. Questa è una cazzata, è innegabile che nei Rom il furto sia una cosa di cultura. Mi pare, abbastanza scontato questa cosa qua, non c'è manco bisogno di dirlo, cioè, è talmente evidente che sia così. Se uno lo dice viene accusato di razzismo. Mi pare evidente che all'interno all'interno della comunità Rom il furto è considerato una cosa normale, cioè, il rubare è considerato una cosa abbastanza scontata, ma non c'è bisogno, non è che ne voglio fare una questione etnica, è che la vita ha portato, il modo di vivere porta allora perché non fate gli arresti preventivi? Ma che c'entra gli arresti preventivi? Se uno nasce, un bambino nasce Rom, arrestatelo prima. Ma io non ne faccio una questione etnica. No, ma se è una questione, come no? No, se una, io dico che sono educati sin da bambini a rubare, perché il modo di vita, non l'etnia, non la stirpe, non il sangue, il modo di vita porta inevitabilmente al furto endemico, al furto continuo. Arrestateli prima, appena nasce un bambino Rom, semplicemente bisogna arrestatelo subito. Arrestatelo preventivamente. Non si tratta di una cosa preventiva, si tratta di giudicare una cosa postuma, e quando tu guardi un evento postumo dici postuma, non è vero. Io giudico le persone. Marco, metti a posto il telefono innanzitutto prima di parlarci, metti a posto il telefono. Io giudico le persone singole, per le singoli che fanno. Allora Marco, non si tratta di giudicare un evento preventivo, ma di guardare l'evento a vabbè, Maurizio da Napoli, vai Maurizio, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Io praticamente volevo chiedere al signor Parenzo in merito ai vitalizi, no? Sì, che lui ancora, difende... che c'entra i vitalizi oggi? Giusto per dire la mia sui vitalizi, io da un po' che cerco di chiamare sui vitalizi. Se vuoi parlare dei vitalizi? Bene, che hai da dire sui vitalizi? Sì. Io dico, no, in un momento in cui il debito pubblico è spaventosamente alto e che lo pagheranno i nostri figli sono ancora nati, dunque? E questi signori prendono il vitalizio, perché non far sì che quando denaro pubblico e leggi legiferate da queste persone poi vengono, diciamo così, trovati colpevoli di abuso? Sì, però Maurizio, andiamo pubblico al sodo, che cosa cazzo è l'abuso di potere pubblico? Non dovrebbero pagare. Ciao Maurizio, non ho capito un cazzo. Non si è capito niente. Maurizio, chiarisci delle idee e poi intervieni. Baldassarre da Firenze, vai. Baldassarre, ciao, dimmi. Ciao, buonasera. Allora, volevo dire due cose. Io chiamo sempre contro Parenzo, perché poi man mano che passa il tempo lo trovo sempre peggiore. Ha detto due stronzate adesso in tre minuti. Meno male, buonasera. Si mette a deridere Di Maio, e non penso che tu sia all'altezza di Di Maio, perché a Napoli si dice che tu sei la Wallera. Quindi saresti la Wallera di Di Maio. Ma perché? Ma perché? Non ho capito. Uno non può essere che semplicemente Di perché semplicemente perché Di Maio uno Di non può. Cioè, poi lui stando in una trasmissione pubblica deve essere una persona moderata. Ma chi l'ha detto? Chi lo dice? Concetti di politica ed esprimere opinioni. No. Perché lui, e allora che ci stiamo a fare se non esprimiamo opinioni? Imbecille. Ma lui sai che cos'è? Lei è un idiota. Lui è un idiota. Moderato. Ma che ne sai per chi vota? Cercherò di essere moderato. Poi se ne esce con arresti preventivi. Sai perché lo dice? Sì. Perché ma a casa sua non sono andati mai a rubare. Perché a casa sua non sono andati mai a rubare. Io aspetto che gli svuotino casa, che gli rubino l'auto. Grazie. Ma perché speri che gli rubino l'auto e gli svuotino casa? Perché lui deride quando gli altri gli raccontano le cose. Arresti preventivi, ti deve capitare. Arresti preventivi, grazie. Allora, non hai ancora detto che mi stuprino qualcuno in famiglia? No, quello no. Solo un furto. Furto della macchina e a casa. Tu sei un idiota di proporzioni bibliche. Mi saluti tutta la sua famiglia. Me la saluti tutta, uno per uno. Da parte di Parenzo, dica. Le auguro ogni bene. Le auguro ogni bene. Tu sei un frustrato sessuale. Ma perché frustrato sessuale? Questo mi pare un po' eccessivo. Perché frustrato sessuale? Spiegami. Chiedali in giro in famiglia. Non la pensano così. Chieda in famiglia sua. Dimmi, non la pensano così. Ma che cazzo ne sa questo di un 69 che ti squirtano in faccia? Ma che ne sa? Lei è un tipico elettore 5 Stelle, visto l'eloquio. Lei vota 5 Stelle, no? Allora, diciamo così, la difesa di Di Maio ha affidato a un signore che parla in questo modo. Ecco chi è l'elettore 5 Stelle. Chi è l'elettore 5 Stelle. Mi fai parlare? Fermi, Baldassare, vattene. Via. Sei un ladrone. Ciao. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo. Venti di Parenzo. Sei Asmodeo, sei. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Vaggiù, se volete parlare al telefono con La Zanzara, da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Hai salutato una Sabrina prima, che sei andata una mignotta da lei? No, no, un'amica mia, c'è un buco di culo, c'ha 52 anni, c'ha due figli, c'ha due chiappe, amore mio, poi che arriva una fresca. No vabbè, è la moglie di un amico, dai, la moglie di un amico. Ci mancherebbe. Ascoltare Sgarbi e Cruciani che parlano di figa veramente, veramente mi fa pensare che loro non scopano. Assolutamente. Voi non scopate, millantate, stronzi. Beh, amici miei, le offese in arabo. Parenzo, Kawet. Oh. Ah, Crucia, questo ti sei in cura, pure a te ti sei in cura. Oh, senti, il camion. Come fa, trombe, come fa? Mi trovavo ad Odeon TV, Parenzo aveva 22 anni, io poco meno di 21. E nel consegnare un pacco mi sfiorò col gomito il ginocchio. Da quel giorno io non ebbi più una vita sessuale. Volevo fare outing e denunziare questa mia condizione. Mi ha rovinato la vita. Datemi una mano. Beh, Davide, qui c'è materia del contendere, sì, qui sì, c'è sì. Materia, qui sì, c'è ciccia. Sì, va bene, ora arriveranno le solite diffamazioni come Gino, lì come si chiamerebbe il figiro, il figlio che avrei a Napoli. Continuiamo con le... Oh, andiamo avanti. Ma che hai fatto? Andiamo avanti. Ma che è sto rumore? Ma che hai fatto con sto rumore? Che hai fatto? Il water, quello che ti meriti. Il cesso, sei al cesso, sei. Ecco sì. Perché si sente a cazzo di cane, eri al cesso. Ero in bagno. Ma sì. Ho capito, ma ritorna fermo, cazzo. Ero in bagno. Ah, roba incredibile. Parla con i sindacati. Io parlo con i sindacati, cioè non sbaglio anche andare in bagno. Allora, no, il mitico DJ Coccoluto. Mitico DJ Coccoluto ha scritto. Ah, sì, Coccoluto. Beh, Coccoluto, come chi è? Cioè, no, sei, no, no, Coccoluto, scusami. Si allora, ha detto: ha scritto una cosa su Twitter: mi ha molestato e il nuovo piano pensionistico. Cioè, dire, affermare, proclamare, mi ha molestato. Bella battuta. Sì, solamente che dopo ha chiesto scusa alla sergento. Siccome l'hanno massacrato, o comunque qualcuno, la stessa sergente, io non lo so perché non la posso leggere. No, mi piace chiedere scusa, mi piace. Ha chiesto scusa, non mi rivolgevo a te. No, ma chiedere infatti, scusa, ma che vedi chiedi che scusa? È una brava persona, Coccoluto. Io l'ho sempre saputo. Dai, su, chiedere Coccoluto scusa. È davvero una scusami, persona molto carina. Non mi riferivo bravo. A te, non mi riferivo bravo, al tuo bravo. Caso che è diverso. Ha fatto bene a specificare, bravissimo. Mi riferivo alla caccia all'untore che c'è adesso. A parte che non c'è nessuna bravo, caccia all'untore. Bravo, bravo, cioè, sono molti più gravi, sono molto più gravi i casi italiani, probabilmente di attori o anzi no, di registi italiani. Probabilmente un regista italiano del caso Weinstein, per esempio, molto più grave sembra, molto più grave. Ma c'era un messaggio che ci è arrivato dal karma, si è rifatto vivo il karma quotidiano, il karma quotidiano che si esprime, credo, sul sedere, sul tema del sedere. Nuovo argomento. Ragazzi, Mauro Corona, come karma, gli piace il culo. E quando io chiamava e diceva i tipi di culi, un mandolino, o quello, quell'altro, Parenzo! David! E meno male che io sogno miserabile! Mauro Corona, grande scrittore, ci meglio andare a Troie, così te la danno subito! E io che dico? La teoria del karma, del carmine! Meglio andare a Troie, te costa di meno! Do regalino, da borsetta de Dior, do profumino Paco Rabanne, almeno vai lì, paghi e gli dici quello che vuoi, senza aspettare, vai subito. E ti fa lo scondino, ma che bello è andare a Gioia, ma che bello è, che bello è, che bello è, anzi, anzi, fammi preparare che... sto mese di novembre stai aspettando una volta a mese, una volta a mese, non di più, non di più, non si può, una volta a mese, Troie, aspettate il karma, arrivo, arrivo, arrivo. È il karma quotidiano, il karma quotidiano. Capito, cioè quelle parole in bocca a un intellettuale come Corona assumono tutto un altro sapore, quella sua definizione di ciò che, cioè, di ciò che gli piace, cioè, dai, in bocca a quello lì assumono i tratti della volgarità più assoluta. Allora, capito? Ragazzi, c'è una questione. Tempo fa noi qui alla Zanzara, l'anno scorso, intervistammo un signore, anzi quest'anno nel mese di marzo, un signore. Io volevo dirti questo, mi sto bevendo, non so se tu sei d'accordo, un goccio di vino. Sì, no, ti interrompo. Mi interrompi? Non mi fai parlare, cazzo, mi interrompi? Dai. No. Volevo dirti, per la gioia degli ascoltatori, che io sto sorseggiando qui in Toscana davanti a un caminetto acceso, sì, tra poco sì, pubblicherò, vabbè, le foto, cazzi, poi. Un ottimo vino, vino Chianti, non sì. dico di quale marca ovviamente, valore 20-25 castagne. 20-25 euro minimo a bottiglia, no? Poco, troppo a poco. Botti- 32 per l'esempio. 32 no, euro a bottiglia, sì. più castagne, perché le castagne costano poco. Cioè. E no, sono 6 euro al chilo, mi pare. 6 euro al chilo, va bene. Allora, Parenzo sta facendo... praticamente in un batter sì. d'occhio, sì, così come aperitivo, spendendo una quarantina sì. di euro, così, secchi, così, secchi. No, beh, adesso mi fai i conti in tasca, mi hai chiesto, ti ho risposto. Castagne ottime che sto facendo sul caminetto e me benissimo. Le mangio in attesa poi della cena. Scusami benissimo. Se ho interrotto. No, prego. Per carità, allora stavo dicendo che nel mese scusami, di marzo... Scusami, abbiamo sì. intervistato un signore italiano che si era convertito all'Islam, che diceva che voleva certo. infibulare le figlie, un tale Sant'Amato in Puglia. Spero che l'abbiano arrestato. No, questo qua all'inizio l'hanno arrestato, poi adesso gli paghiamo un corso di riabilitazione, chiamiamolo così, una specie di corso che dovrebbe deradicalizzarlo, che dovrebbe fargli togliere dalla mente, sì. dai pensieri, queste sue idee malsane, pagato da noi. Pagato da noi, pagato da noi questo corso, cioè dei corsi all'università per fargli cambiare idea. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Non so se è una buona idea, non so questo sia una buona idea. Non lo so. Però magari può servire a educarlo ai valori dell'Occidente, effettivamente. Ma dai, su, ma che cazzo vuol dire? Paghiamo noi. Pagato da noi. Paghiamo da noi. Ma ovvio, ma chi deve. Ma paghiamo perché, da noi. Ma perché scusami? No, e io qua allora, ci sono io due pago cose, le, ci sono e due io cose. Che pago le cure mediche di quegli instabili che chiamano, e io che pago le cure mediche di quel camionista lì, volgare, fascista, che ha chiamato Quirico, ieri, come Quirico, si chiama? No, quello? No, no, no. Quirino, come Quirico, si chiama? Quirico. Quirico. E io pago le cure mediche a Quirico. Perché? No, perché dai, Quirico, pagando lascia, le tasse. Lascialo perdere, Quirico. No, non mi scatenare Quirico. Non mi scatenare Quirico. Ma poveretto, ma Quirico è un poveretto mentale, non per le questioni economiche, è un poveretto, è un ridotto mentale. Mentale. No, no, con un ridotto cos'è? Mentale, coniamo Quirico. Questa, coniamo questa, è un ridotto mentale, cioè che ha una mente ridotta. No, no, Quirico ma non è un ridotto mentale. Dai, ma è una constatazione, comunque, ragazzi, come direbbe Feltri, è fattuale. Cioè, allora, questo Sant'Amato no? da noi aveva detto le seguenti cose, che la circoncisione è meritevole per le donne. La circoncisione è obbligatoria per gli uomini, ma diventa meritevole per le donne. Con mia moglie facciamo sesso tutte le volte che dico io, tutte le volte che voglio io. Quante volte fa sesso con sua moglie, scusi? Tutte le volte che voglio io. Ma decidi tu quando? è a disposizione. Lei non può decidere. Ma è normale che io, da bravo marito musulmano che teme Allah Ta'ala, non è che glielo vado a chiedere quando mi rendo conto effettivamente che lei non sta bene. Lei si può rifiutare? Solitamente ci sono, è rarissimo che lì si possa rifiutare. E invece l'uomo si può rifiutare? Certamente. È giusto che la donna non possa guidare e che non possa stare da sola. Vorresti trasferirti con tutta la tua famiglia in Arabia Saudita? Perché è l'unico posto dove io posso vivere tranquillamente e in pieno la Sharia islamica che mi permette di raggiungere il paradiso, perché è una nazione. Poi disse che la moglie aveva il velo integrale e che picchiava la moglie con un bastoncino tipo il bastoncino di liquirizia e che la poligamia è eccezionale. E la poligamia è ammessa secondo te? Ma la poligamia, certamente, la poligamia è una cosa veramente eccezionale, una cosa che... Allora ragazzi, ci sono due casi: o questo qua deve finire in galera per le cose che dice, oppure direi. Perché dobbiamo pagare noi dei corsi per farlo diventare normale? No, siccome in normale galera non è, e fai corsi in galera, è ma molto non è, ma no, in galera me. Non lo so, se io non lo so, perché non è che voglio, non voglio mandare in galera nessuno, o questo qua... Beh, se ha picchiato la moglie sicuramente non lo so, deve se, finire in galera. Allora, se questo qua ha commesso dei reati va in galera, altrimenti non gli paghiamo un cazzo, nessun corso, se li fa da solo a casa i corsi, non è che gli paghiamo noi i corsi all'università per diventare tra virgolette normale. Giulia da Milano, vai Giulia. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo collegarmi al discorso che ha fatto un radioascoltatore a Dimmi. Proposito dei Rom. Ecco, io volevo dire questo, anche mia figlia ha subito un furto di cellulare, tutto zainetto. Vabbè. Volevo dire questo, i Rom comunque la maggior parte non lavorano e quindi automaticamente devono comunque mangiare, vivere e quindi hanno bisogno di soldi per poter questo fare. Lo sapeva, sta dicendo delle cose ovvie. L'unica cosa che ci ha detto è che sua figlia forse è stata derubata di un cellulare, sì, non allora si capisce dico... se da Rom o no, però da Rom. Allora io non ho capito. Erano Rom quelli che hanno rubato il cellulare a sua figlia? Sì, e che ne sa lei? Sì, perché li hanno visti da lontano che scappavano con gli zainetti. Vabbè, allora? Vabbè. Volevo dire che quando capitano queste cose vanno puniti, giustamente. Ma no, ma che cosa strana ha detto lei? Non ha detto una cosa originale, vanno puniti. Di solito mandano davanti sempre i bambini a compiere questi Vabbè, atti. Allora? Allora, io dico, se i genitori non sono in grado di educarli, allora a questo punto si possono rivalere sui genitori, visto che i bambini non possono... Purtroppo essere... non accade mai, perché non tolgono i bambini ai genitori. No, non dico questo di togliere i bambini ai genitori. No, io dico di sì. Bisognerebbe togliere subito i bambini, togliere dai genitori molto che li mandano a rubare. Togliere subito. Ferma lì, ferma. Parenzo, assumi la Rom. One zaba, two zaba, three zaba, heta. Four zaba, five zaba, six zaba, heta. Seven zaba, eight zaba, nine zaba, heta. Four zaba, heta. One zaba, two zaba, three zaba, heta. Four zaba, five zaba, six zaba, heta. Seven zaba, eight zaba, nine zaba, heta. Four zaba, heta. Four zaba, heta. Assumi la Parenzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. Pronto. Ciao Giuseppe, sono io Fabrizio da Milano, numero uno. Grande, sei il numero uno Giuseppe. C'è anche lui, ehi Buscetta, ti ho sentito. Ciao Parenzo, Buscetta dei poveri, non mi riconosci? Tu ormai hai raggiunto il livello Librandi. Ecco, tu quando una persona raggiunge il livello Librandi è l'offesa peggiore che possa dire a una persona. Ecco, tu hai raggiunto il livello Librandi. Te Oliviero Toscano, quell'altro minchione. Guarda, a New York puoi andare giusto te e Linus, andate a correre, va, andate a correre, te e Linus. Allora, ieri sera ho fatto come dice Parenzo, l'ho portata a cena, 125 pounds, l'ho portata a bere un drink, altri 25 pounds, totale 150 pounds, sono tornato a casa con le palle piene, se andavo dalla mia amica Marlene risparmiavo, pagavo la metà e mi svuotavo le palle. Parenzo, ma va, va. Parenzo, basta, mi fai venire la secchezza vaginale. You're a superstar at the game ball. Allora Andrea da Roma, vai Andrea, vai Andrea. No, prima però voglio dirti questo, però prima voglio precisare questo, perché questa, precisare, la secchezza della signora, quell'altro che ha portato a cena e non ha combinato nulla. Voglio lanciare questo messaggio: riscopriamo il mistero del ce la darà, non ce la darà. Cioè riscopriamo, per dirla brutalmente, quel mistero dell'amore, che è quello che quando a te piace una ragazza la porti a cena, poi non sai come andrà a finire. Anche quello è bello, perché ti devi giocare le tue carte, la devi conquistare. No, non a me devi non piace. Pagare, quello è la bellezza e la magia di questa cosa. Ma io no, voglio lanciare questo messaggio alle giovani generazioni che ci ascoltano: quel momento tenetelo che duri a lungo, prima di quel primo bacio straordinario in cui le vostre labbra incroceranno le labbra della vostra amata. Cioè, ma anche il mistero di dire: ma ci starà, non ci starà, una no, bella cena, un bicchiere sicuro, di vino. Meglio andare a colpo sicuro. Meglio andare a colpo sicuro. Io sono della filosofia Corona: meglio andare a colpo sicuro. Troppe chiacchiere, troppe discussioni. Allora o si paga, pagare. Io non ho pagato poche volte, o si paga oppure si va a colpo sicuro. Che è sta storia del mistero? Te la dà, non te la dà, due giorni no, dopo, ma anche la quattro bellezza, giorni dopo. Stai ma a sentire, chi se ne frega? Lancio questo grande tema. Alla fine sono sempre le donne che decidono quando e come. Ah sì, perché per fortuna è così. È così, è bellissimo, sono loro che decidono. Ma magari insomma, una ci può sempre, anche comunque. In genere 80% allora? Almeno in genere succede così: lei magari se tu accetta un tuo invito a cena, gli piaci, ma non è detto che quel giorno si consumi tutto, magari ti fa aspettare un due giorni, tre giorni, ma che cioè, rottura di coglioni, che questi mio, ragionamenti che per quel ridotto mentale di come si chiama chi? Carmina Burana lì, come ma si chi? Chiama Quirico, quello lì Quirico, Quirico. Ma il Quirico, Quirico, karma, Quirico karma, dici, il Carmina Burana. Ma lascia e karma, donna, karma, lascia questa opere. Gentaglia che chiama, è evidente che loro non riescono a capire karma, la poesia chiama, questa, così gli dai una lezione, karma chiama, la poesia va. Di questa roba. Andrea pagano, da Roma, vai qui. Andrea Renzo, dimmi dimmi dov'è PD Renzo? Ma che c'entra PD Renzo adesso? Voglio parlare con PD Renzo, dov'è? Sta qua, dimmi. Guarda, eccolo, eccolo, sono arrivato un nuovo fascistello per te, sta parlando adesso, va bene? Bene, a sentire questa radio siamo tornati nel ventennio, però per fortuna non è così, andiamo avanti. Senti, allora, ascolta, non è così, no, non solo è così, per informarti che io prima ho sentito no, il lei notiziario. È passato, lei non serve più, lei è solo un fascista, non serve, chiamini i nazisti per cortesia ora, lei è semplicemente un fascista, ormai è normale. Devo fare il salto di qualità, però devo dirti sì, questo, esatto, per deve fare il dimmi, salto dimmi, di qualità, dimmi, allora... Io ho sentito il notiziario, ho sentito che c'è stato uno stupro di due ragazzine di 14 anni qui a Roma, sì, sì, e mi ha fatto incazzare sì, questa notizia. Questa è una cosa molto seria. Adescate da due Rom, sì, adescate pare da due Rom, sì. Sì, però la notizia non è stata inaudita. Definita bene da due Rom, è stata praticamente coperta la notizia dal fatto che due ragazzi hanno stuprato una ragazza. Vogliamo dire sì. Le cose come cazzo stanno una volta per tutte? Ma chi è che non dice? Differenza fa? E che differenza fa rispetto all'efferatezza? Che differenza fa rispetto alla notizia terribile? Seriamente, oramai che differenza fa rispetto al dramma dello stupro? È come il doc per se le lo bottiglie. Fa il produttore di Hollywood. O se lo fa il Rom, che differenza fa? Me lo può spiegare? Per beh, il produttore di Hollywood se lo fa uno che uno abita ai Parioli o uno che lo fa a Torbella Monaca. I Rom sono 100 su 100 e tutti stuprano? 100 Rom stuprano 100 ragazze. Ah, vabbè, è così? Lo stupro in realtà non è molto vede diverso. Vede che il suo ragionamento non regge? Vede che non regge? Vedete che non regge il suo ragionamento? Non dico che superano 100 ragazze, ma commettono reati, 100 Rom commettono 100 no, reati. Calmati, qui stiamo parlando di stupro, è una cosa molto seria, di due ragazzine. Allora, mi dice che differenza c'è tra uno stupro commesso da un bianco che abita ai Parioli o a San Babila a Milano o dite voi dove nessuno, cazzo vi pare? Qua si parla di bravo. Etichetta. E il allora Rom perché lei deve dire... Ruba, l'altro giorno allora, stupra, in ogni caso, aspetta. Bravo, allora bravo, Andrea bravo. Dice una cosa molto mentre semplice. Mentre i ragazzini che spacciano a Piazza Cavour a Roma invece o ma che spacciano c'entra quello? Io sto dicendo un'altra cosa, io dico solo questo, dai, che diciamo no che omettere il fatto che siano Rom comunque è sbagliato. Cioè omettere che siano Rom è sbagliato. Poi lascia cosa perdere. Cosa aggiunge la notizia? È uno vabbè, stupro, non bisogna punto. Dire che sono Rom. Non ma bisogna dire che sono, sono due criminali. Questi ma che qua senso hanno ha legato, dare la sequestrato, hanno legato, sequestrato e stuprato in un bosco due ragazzine di 14 anni che avevano adescato su internet. E il mostro del Circeo? E no, il ma mostro che c'entra? Del Circeo? Io sto dicendo due ragazzi. Cos'era poi Izzo? Bisognerà provare tutti. Era un fascista, se non ricordo male. Ventunenne rom. Scusami, se non ricordo male, Izzo, chiediamolo a questo signorotto che si definisce fascista. Ma io non, chi ha detto Izzo? Che gli stupratori che siano cos'era solo, Izzo? Chi ha detto che sono no, solo no, lo rom? Chiedo non a te, lo chiedo a lui. Che cos'era Izzo? Ma era un mosso, ma che ma era ma un mosso, era un fascista, però. Si proclamava fascista. Tutti i fascisti stuprano. Tutti i fascisti stuprano. Tutti i fascisti. No, era un fascista. Allora io uso il tuo stesso criterio. Era un fascista che ha stuprato, posso dirlo? Ma era un malato di mente. Posso dire che era un fascista? Certo che è stato detto, era una... Posso dire che era un fascista? Va bene, che Francesco ha stuprato? Provincia di Matera. Ciao Andrea, Francesco provincia di Matera, vai. Francesco, pronto? Dimmi. Buonasera, volevo dire due cose. Sì. A Parenzo. Parenzo, guarda che i rom non si vogliono integrare. Ma te lo dico con certezza, io c'ho una compagna rumena che sono 11 anni che siamo insieme. Sì. Questi qua sono già discriminati in Romania. Vengono qua, non fanno un cazzo per cercare di integrarsi. Sì. Hanno fatto, c'è un campo a Cerignola che prima ci stendevano l'uva, che facevano l'uva alla passa. Adesso l'hanno invaso, che non so se hanno si sono appropriati di questa cosa qua, di questo spazio. Sì, i problemi l'hanno di Cerignola, sì, i problemi di Cerignola hanno ridotto un immondezzaio. Sì, però amico mio, a Cerignola aspetta un attimo, Cruciale. A Cerignola il problema non sono i rom, te lo posso il assicurare, c'è altro tipo di criminalità. Sono le puttane, ci no, sono tante, no, c'è un altro tipo problemi. Di criminalità, non sono i rom. Poi volevo dire ancora una cosa a Parenzo. L'altra sera, venerdì scorso, diciamo quello lì che assumeva le persone solamente di colore, sì, e subito come cominciava a parlare non l'hai riconosciuto, gli davi già addosso. Poi come hai riconosciuto che era quello là che assumeva i rom, assumeva quelli di colore, subito ti sei abbassato i pantaloni e hai cambiato tonalità. Per quanto riguarda te, Cruciani, potresti pure smetterla di rompere i coglioni a Parenzo per l'assunzione di Sabaeta là. Volevo sapere dove che è finito il tuo IBAN per la tua inciampettata. Tu cercavi 200.000 euro per essere inculato. Nessuno me l'ha fatto questo IBAN, purtroppo. Ma tu non hai mai nessuno... dato IBAN, se no avresti avuto 500.000 di euro. Ma che c'è? No, magari, ma caro Alessandro, ti ripeto, nessuno si è mai fatto avanti, altrimenti avrei fornito volentieri l'IBAN, amico mio. Però se tu no, vuoi dare detto, se tu vuoi dare 200.000 sono qua. Se tu vuoi no, dare 200.000 volevo dare 100 euro come tanti 100 no 100 altri, euro te li prendi e te li vai a spendere e te li vai no, a spendere con qualche trans lì. Vai con qualche trans in provincia di Matera, ma che va bene con qualche trans, perché ti fanno schifo i trans adesso. Ti fanno schifo i trans, ma io non mi fanno schifo i trans, sono cazzi loro, come disse il giudice là, gli piace così e sono così, che cazzo gli devi fare. E allora vai a spendere con qualcun altro. Però la personalità, tu che hai fatto tanto, vorrei vedere se hai pagato il pranzo a quello che voleva portare la Torre Eiffel a Milano. Tu no, quello non l'hai cantato. La sera non l'abbiamo, la cena non l'abbiamo pagata. Quella effettivamente la cena non l'hai pagata. Ma sono cazzi nostri, che sono cazzi tuoi. Ma che sono cazzi? Ma scusa, Francesco, sono cazzi tuoi se abbiamo pagato la cena a quello oppure? Certo, sono cazzi tuoi. Che persona sei? Ma smettila, buffone. Ma quale buffone? Ma sei un cretino e basta. Tu sei un pagliaccio. Sei un povero cretino, dai. Sei un io povero... quando dico una cosa la faccio. Ma che fai? Che ne so io? Se sei un cretino e un pagliaccio sei tu. A me sembra che sei un imbecille, punto e basta. Sì, sì, sai parlare a me solo sembra in questa che maniera sei... perché a me sembra che sei un povero imbecille, dai, su. Può essere anche, però sei un povero cretino, un imbecille. Non arriverò mai a te, mai. Sì, no, non c'è... su questo non c'è dubbio, mi puoi pulire perché le scarpe. Se eri una persona seria avresti dimostrato a qualcuno. Mi puoi pulire le scarpe. Mi puoi pulire le scarpe. Ma tu mi fai una pompa, altro che è arrivato. Ciao, scarpe, ciao Francesco, in culo, ciao. La Zanzara. Allora andiamo a Londra, Christian, vai Christian, da Londra addirittura, vai. Eccolo, Cruciani, mi senti? Dimmi. Senti, io ti sto per denunciare all'ordine dei giornalisti della Lombardia. Fai pure, non è la prima volta. No, stai zitto, fammi parlare. No, stai zitto un cazzo, innanzitutto. Stai zitto, fenomeno. Vabbè, tu la devi piantare. Lasciamolo parlare, dai. Delle, delle balle colossali. Sì, io faccio quello che mi pare, prove. Non sei tu, e non sei tu e a dirmi quello che devo fare, chiaro? Sei lo zerbino di Sgarbi. Può darsi, sì, allora, denuncia. Anche se fosse così, allora dunque, qual è il problema? Sei lo zerbino, mettiamo Sgarbi, che sia così, non è così, ma mettiamo che sia così, allora che cazzo vuoi? Allora? Niente, e allora? Voglio, io non voglio niente, ti sto solo dicendo. Ma cosa? Denuncia perché cosa? Incretino, perché cosa? Mentecatto, cosa? Cosa? Stai zitto. Ma zitto asino. Cosa, cretino? Asino, ma cosa? Zitto, ma su che? Ma dici asino senza un senso? Cerca di argomentare un minimo, dico un minimo, come allora, base. Ti come... faccio tre esempi. Avanti, fammi un esempio, avanti, poveraccio, vai. Saviano non è un pregiudicato, asino. Guarda che l'ho contestata questa cosa, cretino, imbecille, asino, l'ho contestata asino. Questa cosa, cretino, non sai nemmeno quello Zerbino, che ho detto, cerca Zerbino. Di sentire bene, cretino. Zitto, poi secondo, Berlusconi non è stato condannato per un'evasione da 5 milioni, ha fatto una frode fiscale. Sì, frode fiscale, sì. Frode fiscale, lo so benissimo, allora che cazzo niente. Vuoi? Io dico quello che mi pare allora quando voglio, contesto zitto, quello che no. voglio quando voglio, chiaro? Chiaro? Chiaro o no? Chiaro o no? Tu è chiaro o no? Allora, è chiaro o no? Sono cazzi miei perché gli voglio leccare il culo, chiaro, gli voglio leccare il culo. Hai qualcosa in contrario? Hai qualcosa in contrario? Se gli lecco il culo? Non è così, ma diciamo che è così. Gli voglio leccare il culo, allora? Allora? Gli voglio leccare il culo. Hai qualcosa in contrario? Hai qualcosa in contrario? Hai qualcosa? Ma tu non puoi fare nulla. Tu sei il nulla, dunque non puoi fare niente essendo il nulla. Non puoi fare nulla, capito? Non puoi fare nulla essendo il nulla. Non puoi fare nulla. Non puoi fare nulla, sei il nulla e non puoi fare niente essendo il nulla. Non puoi fare niente essendo il nulla. E amici muslimi, tu vai a fare un bel corso di aggiornamento. Si vuole sfogare questo, stasera si vuole sfogare, dai, sfogati un po'. Sfoga la tua frustrazione, dai, sfoga la tua frustrazione. Sì, bravo, asino, bene, bravo. Ti sei sfogato? Da dove chiama? Da Londra, esattamente, da quale zona? Ti sei sfogato? Ti sei sfogato, cretino? Ti sei sfogato o no? Certo, cosa? Ti sei Mangano, sfogato o no? Stato assunto da Berlusconi, Mangano, era già un pregiudicato. Sì, benissimo. Non era poi? Una poi, persona bravo, per sei, bene, era ce già un pregiudicato. Questa trasmissione è talmente aperta, è talmente aperta questa trasmissione che tu puoi intervenire, tu puoi intervenire e dire queste cose qua, che io sono uno zerbino, mi puoi tirare le pietre. Il punto fondamentale è che io di quello che dici tu me ne sbatto i coglioni, chiaro, ma me ne sbatto i coglioni. TV, Sgarbi si è addormentato in ma TV, tu puoi fare quello che vuoi, ma che vuoi, ma perché non glielo dici in faccia? Ma perché non glielo dici in faccia? Ma perché non glielo dici in faccia? Ma perché non glielo dici in faccia? Non ho capito, diglielo in faccia. Diglielo in faccia, diglielo in faccia, chiamatemelo dai. Dai, forza, stai qua, diglielo in faccia, avanti, vediamo se hai il coraggio di dirglielo in faccia. Chiamatemi Vittorio, dai. Chiamatemi Vittorio, questo cretino da Londra, questo imbecille. Magari si addormenta. Ma denuncia che cosa? Ma denunci cosa? Cosa denunci? Ma dove denunci? Ma da chi? Ma non sai nemmeno come funzionano le cose, cretino. Ma non sai nemmeno come funzionano le cose. Sei il nulla. Sei il nulla. Sei il nulla. Ma di chi? Di chi? Sì. Ma sì, sì, è vero. È vero, è vero. Allora? Allora? Perché, è allora, vero, allora? C'è un livello, allora, base di allora, che è chiaro, e allora? No? E allora? È chiaro, però non, e dunque? Non lo spiega, e dunque? Perché fai lo ma non, perché sono cazzi miei, perché mi piace leccare il culo. È chiaro? Ecco, mi piace leccare il culo. Dunque mi piace leccare il culo, mi piace le... sì, bravo, mi piace leccare il culo, chiaro, mi piace leccare il culo, sì, sono ridicolo perché mi piace leccare il culo, allora hai qualcosa in contrario? Hai qualcosa in contrario? Promessa, o mi devi dire tu, o mi devi dire tu quello, o mi devi dire tu quello che devo fare, però ascolti, ascolti e chiami, ascolti e chiami, poveraccio. Sì, ascolti e chiami. Tra un po', ci sarà 2 settimane di pacco da Belluno mentre tu fai il bel corso di aggiornamento. Ciao tesoro, ciao, ti amo, sei straordinario, se vuoi le col culo anche a te, se vuoi le col culo anche a te, se vuoi le col culo anche a te, sì sì, ti voglio leccare il culo anche a te, sì sì, sono un asino e ti voglio leccare il culo, ciao poveraccio, ciao poveraccio, ciao. Ciao. Allora, ieri abbiamo assistito, ragazzi, a un'intervista, quella di Costanzo a Berlusconi, che ha avuto dei momenti eccezionali, dei momenti, dei voli pindarici, direi, no? Molti hanno considerato questa intervista come una sorta di ouverture della campagna elettorale. Diciamo un'intervista un po', si direbbe, come si dice, zerbinata, insomma... non era un Costanzo incalzante col signor Berlusconi, eh? Non era un Costanzo incalzante, lo ha fatto tracimare in ogni dove, ma non è certamente, ma no, l'ho vista, non l'ho vista, non, ma è, che vuol dire? Non doveva essere un Fight Club, insomma, non doveva essere un Fight Club. Il momento più eccezionale è stato quello delle urne dei miei a casa. Stupenda questa cosa qua. Le urne con i genitori. Meraviglioso. Ti manca papà? Altro che mi manca. Però adesso devo dirti, ce l'ho in casa. Perché sono riuscito, ho ottenuto di avere l'urna delle sue ceneri e quelle della mia mamma. Bella. Le ho messe sull'altare della mia cappella dove si celebra la messa tutte le domeniche mattina. E vado lì, prima di andare via, accarezzo l'urna, bacio l'urna, guardo le fotografie che ho messo intorno. Quando ritorno a casa vado prima di tutto ancora da loro e si è riaperto un dialogo che da troppo tempo mi mancava. D'Avellino, Giuseppe, detto Peppe, vai. Oh. Ciao, Gari. Dimmi, dimmi. Più o meno. Dimmi. no, niente, volevo dire. Niente, questo che... dice niente, avanti, niente. Ascoltami. Praticamente voi parlate troppo dell'Italia che non va, però effettivamente ci sta un'altra parte dell'Italia che sì, non funziona. Sì. Sarebbe tipo adesso lo mando a fare in culo pure questo, eh. Adesso fra poco lo mando a fare in culo. Questo lo mando a fare in culo. Questo lo mando a fare in culo. Io lavoro sì, dalle 8 alla mattina fino alle 7:30-8 di sera, faccio allora una tirata. Perché ho una moglie disabile e una figlia disabile. No, per carità, assolutamente. Cioè, allora, nessuno mette in discussione i tuoi problemi. Ora, la domanda è questa. Da noi, cosa vuoi questa sera? Cosa vuoi dire? Cosa pretendi? Cioè, diciamo? A questo punto mi dipingo di nero sì, e mi metto su un balcone e torno in Italia. Così campo meglio, capito? Ah, tu stai dicendo semplicemente una cosa. Stai dicendo che sono privilegiati, diciamo, gli extracomunitari che arrivano rispetto a noi italiani, cazzo. Parenzo, tocca a te rispondere a questo signore, non so come puoi rispondere. No, cosa vuoi che dica? Questo c'ha un dramma in famiglia, quindi deve essere. Se la prende con i signori immigrati. Non è che deve prendersela, lui deve avere. Di persone normali. No, capito, lei mi ha lei ci ha raccontato del suo caso, ha detto che ha purtroppo un figlio sì, disabile sì, e una moglie che non può lavorare perché anche lei ha dei problemi. E mi dispiace, ma che c'entrano gli immigrati? Lei deve avere diritto all'assistenza sociale. Vabbè. E quindi deve avere gli assegni. E che devo dire io? Non è che è colpa degli immigrati, però. Cazzo, cioè non esiste niente, perché qua ci stanno 290 euro al mese. Io lavoro per 500 euro al mese. Vabbè, nero, capito, ma che c'erano gli immigrati, nero, però cioè, gli immigrati non e la colpa niente. Che colpa hanno gli... guarda hai wifi e c'hanno questo e c'hanno quell'altro, cioè è un'altra cosa. Fermo. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco. Nella roba pazzesco. Non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Sì! A vende l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. La zanzara. Su questa cosa ti deve preparare. Posso parlare? O no, mi dovete rompere il cazzo? Calma, no, posso calmati, parlare calmati. Con la mia dialettica? Gomez, o devo stare a ascoltare? Gomez, se ti il vuole, tuo Gomez, se posso ti vuole parlare? Gomez, posso se ti vuole parlare? La correggere. Posso parlare? Puoi parlare? Posso parlare? Te lo dico io, un secondo, posso parlare? Grazie. Mi fai parlare, porca puttana! Io niente, volevo solo sapere se uno può querelare se stesso, perché insomma penso che Parenzo dovrebbe querelarsi, perché più danno di quello che si fa lui parlando non gliel'ha mai fatto nessuno, neanche quando lo offende, perciò Parenzo, querelati e chiediti danni. Riccardo dalla provincia di Chieti, vai Riccardo, vai, vai. Buonasera stasera, grandi ascoltatori, volevo... telefonate, battaglie, vai, forza. Vai, volevo rispondere a quel signore che mi ha preceduto, che parlava di, della moglie che gli faceva fare quello che voleva, che lui ha l'aspirazione di andare in Arabia con la Sharia, eccetera. Volevo chiedere la collaborazione di Parenzo. Sì, lui su che cosa? Tiene. Scusami Riccardo. Su lui, lui me lo tiene fermo e io lo mando in paradiso, subito. Cioè lo vuoi ammazzare? Lo vorresti ammazzare? No, mandarlo in paradiso, è una battuta però. Che vuol dire? Che battuta è? È una battuta sagace. No, non è una battuta che non abbiamo capito, Riccardo. Cioè, che battuta è? Quello lì, ma come è possibile che esista? Tra l'altro mi sembrava italiano. Dalla sì, ma italiano convertito, certo. Italiano convertito che adesso si è pentito e noi gli paghiamo un corso di riabilitazione. Invece di metterlo in galera oppure per i cazzi suoi. Ma che vuol dire noi gli paghiamo un corso? Ma non vuol dire paghiamo niente. Noi un corso. Gli paghiamo un corso. Paghiamo lo Stato italiano. Ma che vuol dire noi gli paghiamo un corso? Ma questo concretamente gli paghiamo. Ma allora. Sarebbe... Ma no, ma lui magari vive qui, quindi forse cosa vuol dire? Paghiamo è come se pagassimo corso. A uno le cure sanitarie, a uno che vive qua. Ah, ho capito, ma è diverso le cure sanitarie, non è malato di mente, è malato di mente. Sì, ma non tecnicamente, gli paghiamo dei corsi con dei professori universitari che vengono pagati per questa roba qua, per non pensarla più come la pensava, prima, che è una ridicola. Ah, già il fatto stesso di architettare questa cosa è ridicolo. Cioè, perché tu credi veramente che uno che ha detto certe cose si possa pentire o che possa cambiare attraverso dei professori universitari che gli insegnano la democrazia o gli insegnano la tolleranza? Non credo. No, nessuno ci crede. Cioè, è un modo per sfuggire alle condanne, alla riprovazione sociale, al fatto che non trova più lavoro perché faceva il camionista, me lo ricordo bene. Cioè, punto. Cioè, c'è solo questo. Alessandro Cremona, vai Alessandro. Sì, ciao. Ascolta, io volevo dire una cosa riguardo a quella testa di cazzo di un musulmano che ha chiamato ieri, dicendo che da noi non ha niente da imparare su come si trattano le donne, eccetera, eccetera. Sì. Prima roba, gli dico questo. Lui non si deve permettere, visto che i musulmani quando vanno a cagare si lavano il culo con le mani. Quindi già questa è una cosa non che ho capito, devono imparare. Aspetta, stai calmo Alessandro. Ma cosa non stai dicendo? Cosa vuol dire, scusami? Cosa vuol dire? No, a parte che allora, anch'io mi lavo il culo con le mani. Cioè, se sì, no, ma io quando vado a cagare non mi pulisco il culo con le mani. Io con sì, io sì, assolutamente sì. Cioè, allora mi coglione anche te. Mi dispiace per te, ma a parte che non c'entra niente con i musulmani, non è che i musulmani si puliscono il sedere così. Ma che dici? Cosa dici? Ma cosa dici? Guardi che si lavano più di lei, perché ogni volta che entrano in moschea hanno l'obbligo, infatti fuori dalle moschee, se lei sapesse, se lei studiasse, anziché dire minchiate, saprebbe che fuori da ogni moschea ci sono dei bagni, dei lavandini, perché è obbligo di un buon musulmano, prima di entrare nel luogo di preghiera e prima di invocare il Signore, di lavarsi la faccia, dietro le orecchie, le mani, i piedi e poi dopo possono pregare. Quindi sul fatto della pulizia lei dice delle minchiate. Se lei conoscesse un minimo sull'Islam, saprebbe che fuori da ogni moschea e prima di iniziare la preghiera è fatto obbligo per gli islamici di lavarsi, cosa che lei non sa perché lei è stupida. Vabbè, oltre a questo, che cazzo vuoi, Alessandro? Questo, non ho capito. Detto questo, ti porto un esempio. Sì. Ma non può più portare esempi perché lei dice stupidaggini. Ma non lo so, ma non so che... Stai zitto, Parenzo, fammi parlare un attimo, chiudi quella fogna lì di bocca, un secondo. Allora, prima roba, io faccio il camionista. Una sera mi sono ritrovato a Verona e dovevo aspettare 2 ore prima di caricarmi il camion. Allora? C'era in parte a me un musulmano, mi sono messo a fare 2 chiacchiere, lui era di Verona. Sì, allora? Abitava a 5 minuti da lì. Mi fa, dai, vieni a casa mia a bere un tè. Allora? Siamo andati lì, questo qua mi ha tenuto 5 minuti giù fuori dalla porta perché doveva aspettare che la moglie preparasse il tè e dopo lo chiamasse al telefono dicendogli che il tè era pronto e dopo lei se ne doveva andare in camera. Allora? Allora si tratta così una donna, perdonami. Ma non lo so, ma se questo qua ma guarda che come sfondi una porta aperta sul modo in cui l'Islam o gli islamici trattano le donne. Cioè, ma a casa mia quando vengono degli amici, non è che chiudo mia moglie in camera perché non voglio fargli vedere. Ma non lo so, se questa ha chiuso la moglie in camera. Chi è che l'ha chiusa? Non lo so, ha chiuso la moglie. Ma magari sarà andata a vedersi una telenovela per i fatti suoi, no, e non voleva vedere lei che ha una faccia di merda. Magari è successo anche semplicemente questo. No, dice: guarda, mio marito mi porta a casa i soliti imbecilli. No, in questo caso aveva anche ragione. Non devi parlare, non devi parlare. Ma perché non deve parlare? Scusa, non ho capito. Ma perché contratto? Ma cosa vuol dire? Purtroppo. Guarda, me l'ha confermato quella persona qua. Mi ha detto: io la chiudo in camera perché così è da noi, è la nostra religione. Le donne non possono stare, non possono vedere altri uomini al di fuori della famiglia. Vabbè, allora? E quindi questo già per me non è rispetto, quindi quell'uomo lì deve imparare su questa roba. Va bene, Alfredo da Novara, vai Alfredo. Buonasera. Dimmi Alfredo, dimmi. Atteso che la religione islamica è una religione molto dogmatica, assolutista, nel senso che chi non è islamico è un infedele e quindi deve essere eliminato. Ed è dunque una religione di morte. Considerato che non esiste l'islamista, l'islamico moderato, esiste il musulmano connivente, che in qualche modo non è terrorista, allora... però comunque in qualche modo giustifica gli atti di terrorismo. Vabbè, per cui ogni attentato terroristico che procura vittime, io per ogni vittima espellerei dal paese 100 islamici estratti a caso nei registri anagrafici dei comuni. In tal modo si viene a creare una breccia nell'omertà, nella in qualche modo una condiscendenza di tutta la comunità islamica che esiste nei paesi a qualunque livello sociale. Cioè, non ho capito, tu per ogni attentato, per ogni morto in un attentato cacci 100 islamici? Sì, estratti a caso, a sorte, tra i registri anagrafici delle città, cioè, a parte che per fortuna in Italia non ci sono stati attentati, ma comunque dovesse accadere un attentato in Italia, tu per un morto italiano 100 islamici fuori, che è una vecchia tattica nazista durante la guerra, mi sembra, Parenzo. No, i nazisti li ammazzavano, io li mando solo a casa. Vabbè, insomma... Non sottilizziamo. Ma ci furono delle vendette proprio. Che te ne pare di questa proposta di Alfredo da Novara? Sai perché, Cruciani? Questo atteggiamento possibilistico nei confronti del terrorismo è diffuso nella comunità. Vabbè, tu caccerei, ho capito. Allora facciamo così, per ogni reato commesso ad esempio da un camionista, noi ritiriamo il camion a 100 camionisti, va bene? Non è la per stessa ogni... cosa. Sì, facciamo così, perché se andiamo per categorie, se ragioniamo per etichette, per ogni... perché dovremmo espellere dall'Italia l'italiano Abdallah Kabakebji, ad esempio? Per quale motivo? Per quale motivo dovremmo espellere dall'Italia l'italiano Abdallah Kabakebji? Per quale motivo? Perché continuate perché a ragionare per etichette? Perché dice che è connivente. Perché il camionista non ha la sua cultura l'incidente stradale, è una disgrazia, mentre invece l'islamico nella sua cultura, nel suo DNA, nel suo DNA ha l'intolleranza verso chi non è islamico. Ho capito, nel ciao DNA. Mauro, provincia di Padova, dai. Sì, Cruciani, mi senti? Dimmi. Sì, riguardo, io ho assistito all'inizio della trasmissione. Sì. E parlavi di Sgarbi, sì, che pensavi facesse un ictus o facesse un infarto. Questo ho detto, sì, allora? Ma qual è la cosa che è più preoccupante? Non è quello, è il fatto che lui ha difeso la lista di Musumeci, non ti sembra? Beh, c'è un sacco di gente in Sicilia che voterà per Musumeci, nonostante la lista sia piena. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Cioè, hai sparato una cazzata. Ma chi? Ha sparato una cazzata? Tu hai tralasciato. Quale sarebbe la cazzata? Scusa, spiegami. Quale sarebbe la cazzata? Che tu hai tralasciato il fatto che Sgarbi difende una lista fatta di corrotti, mafiosi. Ma ti rendi innanzitutto conto? La lista, cioè, non è fatta di mafiosi. Ma tu, la lista che non che è radio fai? Ma scusa, senti, ma tu dovresti dare un minimo di informazione. Senti, Mauro, senti fenomeno. Io non ho difeso nessuna. Non ho detto fenomeno, nessuna lista. Perché innanzitutto ho detto che se fossi in Sicilia voterei per Cancelleri. Dunque, non mi rompere i coglioni, chiaro? Dunque, ma tu, Sgarbi, non puoi dire che ti preoccupa il fatto. Cioè, il file incriminato è questo. No, non mi preoccupa, chiaro? Non mi preoccupa. Aspetta, il file incriminato resta lì un attimo, cretino. Aspetta, senti questa roba qua. Senti questo. Sgarbi e Formigli. Se uno dice che qui è meglio che se comanda la mafia, lo candiderei. Sentiamo. Vai. Se un candidato risulta da un'intercettazione abbia detto in questo quartiere è meglio se comanda la mafia, tu lo candideresti oppure no? Certo che lo candiderei, perché con quello che perfetto, fa una giustizia perfetto, che cerca certo, la mafia dove non cosa. C'è, quella è solamente una battuta. Chiara, candideresti un uno che dice è meglio un mafioso dello Stato è meno mafioso di un magistrato in malafede. Mi pare un ragionamento alla Sgarbi. Non vedo dove sia la vergogna, scusami Mario, credo che sia questa la cosa che ha detto. Avresti dovuto esordire col Avresti, dire a parte Sgarbi, che io dico che cazzo che Sgarbi mi pare e non sei tu a dovermi dire quello che devo dire. Ma scusa, sì. Secondo te Sgarbi perché parla così? Perché? Perché è convinto perché di quello difende? Che dice? Perché no, è convinto non è di convinto. E perché cosa? Spiegami. Perché è cosa? Un spiegami. Filo berlusconiano. Ma dai. Quale filo berlusconiano? Lui vive, grazie. Ma Sgarbi tifa per Sgarbi e basta. Non dire minchiate. Non capisci sopra. Niente. Non capisci come niente. Il tuo collega lì in fianco. Ma dai, di la verità. Quale sarebbe il collega di fianco? Non ho capito. Quello che hai in fianco, dai. Io non, lo voglio, non lo voglio neanche nominare. Anche mio compaesano. Ma comunque. È una vergogna, dai. Ma cosa è una vergogna? Cosa? Cosa? È una vergogna quello è tutta che una vergogna. Quello che... Comunque, se dici va bene, è una vergogna. Dite la verità. Una cosa vergogna. Ma cosa? Qual è la verità? Non ho capito. La quale verità sa... quale Sgarbi... Sgarbi difende Berlusconi. È alleato in questo momento, è alleato con Berlusconi in Sicilia. Ma di che cazzo stai parlando? Ovvio. Cretino, di che parli? Perché cretino? Ma perché sei un cretino? Perché non ha detto che non difende la mafia. Stava ragionando su un'intercettazione di un signore che ha detto che in quel quartiere. Ma la risultante qual è? La risultante, la risultante, dai, la risultante Cruciani, che sei, ragiona, la risultante che sei un poveraccio. Bello, ragiona, la risultante un che sei un poveraccio. Questo è il punto. Sì, io sono cioè, poveraccio, sicuramente. Ma tu ragioni, riflettici. La gente non è stupida. E allora? Allora non ti dà ragione, capito? Non puoi pensare ah, che è l'interpretazione della gente. La gente proprio, non mi dà siete ragione. Siete ridicoli te e il tuo collega, veramente. Sì, invece sì, tu sei io mi diverto perché fate una radio. Meno male, che... meno male. Che... Ciao, meno poveraccio, ciao. Riccardo io, da Genova. Sì, ma io mi diverto. Comunque, bravo. Riccardo, dimmi. Dimmi, Riccardo. Sì, guarda, io ti volevo dire che gli islamici sono diversi. Quindi è inutile cercare tante... Ma questo sfondi la porta aperta con me. Allora sì, poi? Però io ci ho vissuto 3 anni. Allora, con delle persone che ci ho lavorato. Le donne le considerano tutte, le nostre donne le considerano tutte delle puttane. Le uniche brave sono le loro mamme e le loro sorelle. Poi ti volevo dire un'altra cosa. Sì. Cerca di dire meno parolacce. Io dico quello che mi pare, non sei tu a dirmi quello che devo dire. Certamente. E allora basta, punto e basta. Ciao, prego. È una trasmissione fatta così, amico mio. Arrenditi. Ti voglio bene, arrenditi. Ciao, prego. Le parolacce non sono queste, le cose volgari sono altre. Ciao. Va bene. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento La Zanzara. Mi fai parlare, porca puttana! Giuseppe, un tassista romano, ero a Piazza Indipendenza, accanto alla sede del Sole 24 Ore, si avvicina un giapponese con in mano un cellulare e la scritta tradotta «Voglio andare a prostitute». Questo ragazzo cercava una prostituta in zona Termini con le tettone, ma la cosa più divertente è che era fidanzato. La ragazza l'aspettava in albergo e aveva solo un'ora per trovare un taxi, cercare una ragazza libera in vicino Termini e scoparsela. E niente, missione compiuta. Allora, caro David, un grande ritorno! Il filosofo della Zanzara! Nonché ovviamente filosofo all'università, insegnante, e marxista, antimondialista, Diego Fusaro! Buonasera, buonasera! Un caro saluto a voi da Diego Fusaro! Bene, bene, l'umanità è sotto attacco, caro filosofo, caro professore? Perché è sotto attacco? Essenzialmente sì, la mia tesi è che oggi stiamo assistendo sempre più in maniera evidente a una disumanizzazione dei rapporti sociali, sì, in forza della quale disumanizzazione l'uomo, sì, si sente sempre più alienato e fuori posto nel mondo che invece dovrebbe essere il suo mondo più proprio. Ah. Abbiamo a che fare con quei fenomeni che, sì, il marxismo chiamava di reificazione, che, cioè, oggi dopo il 1989 sempre più si intensificano. Sì. Per reificazione si intende il diventare cosa, merce dell'uomo. Sì. È contrario alla natura dell'uomo l'essere merce, perché l'uomo ha una dignità e non ha un prezzo, E dunque... ha un valore che non è valore economico, laddove invece molto il mondo bene. Del capitalismo integrale, sì, sempre più sta riducendo l'uomo, sì, a merce, che ha solo un prezzo e non ha più dignità e valore. Questo è uno dello scandalo, sì, è lo scandalo principale della società del capitale. Mi fa odierna. Piacere che lei lo dica alla radio della Confindustria. Molto bene. Molto anche bene. Perché io penso che sia il filosofo Diego La Fusaro. La verità è rivoluzionaria, disse Gramsci, cari amici. Assolutamente. Anche perché io considero, penso, cari amici, vabbè, che cari penso amici. Che il nostro amico filosofo Diego Fusaro, sì, consideri l'Associazione dell'Industriale Italiana una sorta di banda di ladri o di. Oh, per carità. Per niente, io considero anzi che occorra ripartire da una unione solidissima fra l'impresa nazionale italiana e il lavoro nazionale italiano. Beh, sicché oddio, ho anche fondato un'associazione culturale che si chiama L'Interesse Nazionale, che parte dall'idea di rifondare la cultura italiana partendo dalle nostre radici, sì, l'Alighieri, Aristotele, Machiavelli, e dall'unione della forza dell'impresa nazionale italiana e del, sì, lavoro nazionale italiano contro gli assalti che i poliorceti della mondializzazione, come? Capitalista. Scusami? I poliorceti? I poliorceti è un termine greco, letteralmente sono, sì, coloro che stanno scagliando i loro colpi durissimi contro lo Stato questi? Nazionale italiano, contro i diritti dei lavoratori. Ma mi suona un po' fascista tutto... questa cosa, cioè, vagamente. Mi suona vagamente, un po' corporativa, sì, questa cosa, sì, le corporazioni, bravo, o sbaglio? Ma niente affatto, è una teoria che trovasse formulata in maniera chiarissima nei lineamenti di filosofia del diritto di Hegel. Benissimo. I quali, essendo stati composti nel 1821, non possono neppure essere in odore di fascismo. Assolutamente. Allora, io la cosa che voglio chiedere però come al professor Fusaro, dopo questa, dopo che ci ha dipinto il, sì, quadro, che so che si incontrerà stasera col signor Povia anche, sì, non pare, capisco, no? Quali possano essere, come dire, sì, i punti di incontro con il signor, sì, Povia, che è passato dall'essere un bravo cantante a una sorta all'essere di... un omofobo razzista contro l'immigrazione. No, questo, cioè, non credo, questo, sì, non assolutamente, razzista, assolutamente. Addirittura. Io razzista, voglio capire una cosa. Mi piace, ecco, per lui, ma l'omosessualità, secondo te, è una devianza che è provocata dal turbocapitalismo? Si può dire nel tuo linguaggio una cosa di questo tipo, caro Fusaro? Ma niente affatto, l'omosessualità è perfettamente secondo natura, dato che si ritrova in tutte le specie animali. Il problema è quello di una società come che animali. Tende a dissolvere la famiglia non per emancipare gli omosessuali, che invece è cosa giusta e sacrosanta, ma per dissolvere i fondamenti stessi della comunità umana. Essere a favore della famiglia, come erano Aristotele e Hegel, non significa affatto essere contro l'omosessualità. Ho capito, anzi, però, si può benissimo riconoscere, come fa il sottoscritto Diego Fusaro, la piena naturalezza dell'omosessualità e la piena naturalezza della famiglia. Capito, ma se uno ha un amante o un'amichetta, come si fa poi? Se uno ha un amante, no, dico, se uno ha un'amichetta o un amante, come si fa a gestire dal punto di vista, cioè, filosofico? L'adulterio, questo vuole dire, l'adulterio, il tradimento. L'amichetta, l'adulterio, l'amante. L'adulterio è una questione che riguarda la morale e quindi è qualcosa che appartiene specificamente all'individuo e alla negativo, sua moralità. È negativo per la famiglia, per la stabilità di un paese, per la stabilità di una società, diciamo, no? Beh, certo, la famiglia dovrebbe reggersi su rapporti di libero e uguale riconoscimento fra l'uomo e la donna e la prole, evidentemente. E dunque... L'adulterio, sia che lo commetta l'uomo, sia che lo commetta la donna, è una forma di mancanza di fiducia e di fedeltà e quindi compromette la tenuta di quella tutte comunità originaria, sì, basata, bravo, sull'immediatezza del sentimento, come dice Hegel, che è la famiglia. Ottimo. Che è il fondamento di ogni altra comunità. Ecco, non e invece le cosiddette, nuovo. No, interessante, invece le cosiddette gang bang, ad esempio, questa dinamica che Cruciani spesso propone, in cui c'è una parità sostanzialmente di donne e uomini che si ritrovano in castelli il o sesso appartamenti. Di gruppo, il sesso di gruppo, sì, in sostanza, queste, il sesso di gruppo, questi... o la donna messa in mezzo con più, no, uomini mica insieme. Solo lei, non è solo lei. Il sesso ma di, c'è, gruppo, come si inquadra nella società contemporanea? È una devianza, è una cosa. Beh, anche una cosa i greci negativa. Lo facevano, no? Facevano le orge i greci, sono, mi pare, no? Sono forme, a mio giudizio, di squadrismo erotico post-borghese, post-proletario, dove vi è soltanto l'individuo gaudente che non instaura forme di comunità solidale, ma che anzi instaura forme di godimento narcisistico e acefalo, dove il rapporto con l'altro è volto solo al godimento illimitato dell'individuo. Su questo non c'è dubbio. È l'emblema perfetto della società del consumo illimitato, che è una società dove la comunità non esiste, ci si relaziona solo in nome dell'algida geometria del do-to-death, dove essenzialmente si è competitors, ci si relaziona all'altro solo per massimizzare il proprio profitto individuale. Ma vabbè, lei i soldi piacciono o no? Non ho capito io questo. Ma lei vuole guadagnare di più in vita sua o no? Vuole produrre più libri, vendere più libri, avere, fare più vacanze meravigliose in alberghi a 5 stelle? O i soldi sono un po' una corruzione. La tesi di Diego Fusaro è questa: l'antico talete si appropriò dei frantoi della zona per poi affittarli quando l'annata era buona, e dimostrò che i filosofi, se volessero, potrebbero arricchirsi, ma non è ciò che cercano, perché il filosofo cerca la verità, e la verità è indipendente dal denaro. E dunque, ma come cazzo mangia lei? La via della filosofia deve percorrere la via della verità, e spesso entrerà in conflitto con coloro i quali hanno i soldi e che poco interesse avranno a finanziare la ricerca della verità. E dunque il denaro corrompe la libertà, diciamo la verità. No, ma cosa dite? Ecco, ma sì, che diciamo ma la verità. Parenzo, che invece è ferocemente attaccato al denaro. Ma no, ferocemente, io dico che uno deve essere pagato bene per quello che fa. Ma cosa disse l'antico Epicuro che vi sono persone così povere che la loro ricchezza è tutto ciò che esse hanno. Questo è buono. Scusi, bellissimo. Però le vorrei dire una cosa: che scopare però non è male, professor Fusaro. Dico una cosa: il godimento illimitato personale non è una cosa malvagia. Il godimento. Il problema è che la differenza dei sessi e il godimento ad essa connesso, sto citando ancora Hegel, trova nell'etica familiare, nella generazione di figli, un proprio compimento superiore in una sfera più alta. Cioè, sarebbe bene farlo solamente per fare figli, secondo lei? Non dico questo, però dico che sicuramente il compimento e ciò che ci distingue dai bruti è la capacità progettuale di radicarci in una famiglia, in una continuazione. Noi siamo mortali, il solo modo che abbiamo a disposizione per immortalarci è quello di essenzialmente creare con le nostre opere qualcosa di imperituro, ere perennius, diceva Orazio, o appunto di trasmettere in eredità ai nostri figli il testimone, allora, in modo che essi portino avanti ciò che di piccolo, di grande in questo mondo abbiamo costruito. Ecco, per concludere, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Karma quotidiano, il quale è profondamente attaccato ai bordelli che ci sono in Europa e ne frequenta soprattutto io voglio dire una cosa: quando uno è a questa fissazione di andare una volta al mese, dice lui due volte al mese, in un bordello perché la donna, lui dice, è meglio pagarla perché così si fa prima, perché non bisogna poi spendere soldi in cene, è una persona malata secondo il filosofo Diego Fusaro o no? Come li considera lui i bordelli sparsi in tutta Europa? La visione del filosofo su questo è interessante. Molto interessante. Sono forme di mercificazione e di reificazione, e con ciò mi riallaccio a quanto dicevo poc'anzi. Nella società di libero mercato essenzialmente anche la donna diventa una merce disponibile. Noi ci scandalizziamo sempre, e giustamente, per il trattamento che il mondo islamico riserva alle donne, ma non dobbiamo perdere di vista il trattamento altrettanto ignobile che nella società capitalistica è riservato alla donna, che è solo una merce di gusto essenzialmente, o come diceva Gramsci, un mammifero di lusso diventa la donna nella società capitalistica. E quindi io propongo, se mi interpellate su questo tema, di riporre al centro l'uomo, inteso come uomo e come donna. Ma sti bordelli vanno bene o no? No, mi pare che... Ma essenzialmente io credo che siano forme degenerate. Patologica di una società essenzialmente alienata. Ecco, questa è la teoria di Diego Fusaro, non pretendo di imporla a nessuno. Assolutamente, però Povia stasera, la persona con cui ti incontri, lancia una provocazione: i gay si devono curare con l'eterox, che non so che cosa significa. Cioè, si devono curare i gay secondo te? Ma dunque, io penso che non si debbano affatto curare. Lasciami dire, il fatto che io mi incontri con Povia non significa che io ne sposi le tesi, proprio come il fatto che Parenzo va a parlare a Casa Pound, suppongo, non implichi che egli aderisca alle tesi di Casa Pound. Nulla, non aderisco a nessuna, nessuna tesi di Casa Pound. Sono sempre socraticamente a favore del dialogo, bene, dello scambio delle idee, della dialettica libera, bene, della circolazione del dialogo, che significa logos in movimento. Un'ultima cosa, Papa Bergoglio è portavoce del mondialismo secondo te? Dunque, a tratti ha talvolta un atteggiamento da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, talvolta critica spietatamente i processi della mondializzazione finanziaria e sradicante, altre volte? E talvolta invece sembra aderire a suddetta mondializzazione. Dunque, non si capisce ma niente. Questa è la contraddizione intrinseca alla Chiesa Cattolica, che per un verso è, potremmo dire, una voce contro rispetto, sì, ai processi della mondializzazione a sostegno degli ultimi, e per un altro verso invece ha anch'essa a che vedere necessariamente con questo mondo terribile fatto di holding capitalistiche, di processi di sfruttamento. No, ma lei quando esce a cena, no, volevo capire, no, quando lei esce a cena con una fanciulla, cosa ma le parla in questo modo oppure parla normalmente? Cioè, quando deve ordinare, che so, delle tagliatelle ai funghi porcini, no, per la sua fidanzata, come lo dice? Ma parla normale? Parenzo, io, come già le dissi in altra occasione, io parlo italiano, sto parlando italiano, mi stupisco che talvolta il mio discorso, che in un italiano lineare, non schematico, venga anzi quasi preso per una forma desueta e fuori tempo massimo. Bene, salutiamo Diego Fusaro, adesso ci saluta a modo un suo. Un caro saluto da Diego Fusaro a voi e a tutti coloro i quali hanno la pazienza di ascoltarci. Ciao ragazzi. Bellissimo. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. Su questa cosa ti deve preparare. Posso parlare? O no, mi dovete rompere il cazzo? Calma, no, posso calmati, parlare calmati. Con la mia dialettica? Gomez, o devo stare a ascoltare? Gomez, se ti vuole, Gomez, se posso ti vuole parlare? La, Gomez, posso se ti vuole parlare? Posso parlare? Puoi parlare? Posso parlare? Te lo dico io, un secondo, posso parlare? Grazie. Mi fai parlare, porca puttana! E comunque bisogna tagliare i due pezzettini e bisogna rimetterli continuamente. Mi fai parlare, porca puttana? C'è una che mi scrive: hai detto che sei d'accordo con la caccia anche per sport. Sì, è vero, l'ho detto in una trasmissione su Rai 3. Allora qual è il problema? Non ho capito. Sono d'accordo con la caccia sportiva, sono d'accordo nell'uccidere animali anche per sport, ovviamente secondo le regole che ci sono in ogni paese. Ti denuncio subito all'istante. Denunciami pure, che cazzo me ne frega se mi denunci perché sono a favore della caccia sportiva. Allora non ho capito qual è il problema. Però voglio la sigla, voglio la sigla della nostra rubrica speciale. Tiziana Cantonetti non è un ufologa, è una che gli UFO, gli alieni anzi, li ha visti per davvero. Alieni, campane tibetane e disegni sulle pietre fatti perché qualche alieno gli è entrato in testa. Pronto? Signora Cantonetti? Sì, sono io. Buonasera, qui Radio 24. Ah, buonasera. Come sta, signora Cantonetti? Io sto benissimo, lei? Non c'è male. Senta, mi dicono che domani ci sarà un convegno importantissimo. Sì, ma a me mi hanno buttato fuori dopo la trasmissione di Nemo. Come mai? Allora, guardi, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. So che i relatori si sono arrabbiati perché a me mi è comparso un alieno sulla campana tibetana. Sì? Ma quando è successo questo alieno sulla campana tibetana? Aspetta. Un sì. Anno fa. Sì? Ah, ho capito. Si vede proprio. L'alieno? Sì. E come si vede? Com'è che si riesce? Com'è si vede, guardi, si vede. Poi, sì, essendo studiosi, sì, di questo fenomeno, sì, è come se io li mettessi nel ridicolo. Bah, che ridicolo. Lei ha raccontato quello che semplicemente le è successo, no? Ma ci mancherebbe. Sì, certo. Scusi, vogliamo ripetere, lei dall'età di 9 anni mi sembra che ha avuto i primi contatti con gli alieni, giusto? a me mi addormentano, mi sento tutta rigida, ho paura, mi voglio svegliare, sono bloccata e ho trovato anche una cicatrice sul piede. E questo, porca miseria. E questo sono stati gli alieni, no? Allora, guardi, se sono alieni io non glielo posso dire. So solo che ho fatto un sogno e ho sognato un'astronave gigante. Sono stata 3 giorni rimbambita con dei disegni a piramide. Sì, per forza. Che non sono forza, riuscita allora mai a capire queste finestre a piramide con tutti i colori. Certo. Fatto sta che mi sono praticamente rimbambita per 3 giorni. Ho cominciato a disegnare queste pietre. Ma questo quando? Scusi, signora Cantonetti. Allora, quelle pietre le sto cominciando a fare da 3 anni a sta parte. Se non le faccio, sto male. Ecco, certo. Però lei più volte mi sembra di aver letto da qualche parte che ha parlato proprio di alieni. Cioè, ha parlato di esseri soprannaturali. Ha parlato di grigi, perché il sogno, l'ultimo che ho fatto, erano grigi. Erano grigi, ma che forma? Le posso descrivere se vuole. Sì, prego, mi dica. Sì. Erano con una tutta. Io stavo su questa astronave. Sì, l'astronave. L'ultimo sogno che ho fatto dei sogni con degli alieni grigi proprio, con delle facce che non avevano occhi e bocca, avevano delle bare. Delle bare? Delle bare che sembra che siano i Qing cinesi. Ah, i Qing. Così mi hanno detto. Certo. Io ero terrorizzata, impaurita nel sogno, e mi dicevano che non c'è più il tempo. Cioè non che c'è la terra più il tempo. È pericolo che non c'è più il tempo. Attenzione, questo è importante. Questo è importante. Cioè, lei ha avuto dei segnali da questi alieni grigi e del pericolo che sta correndo la Terra, giusto? Sì, mi dicevano non c'è più il tempo, ripetevano. E questo è vero, però. Ma questo tutto qua, quello che sta succedendo, ormai non si fa più in tempo, non c'è più a riparare. Tempo. Io non ho capito, queste pietre qua sono il segno della presenza di questi alieni, secondo lei? Guardi, io non ho mai disegnato in vita mia, e lei se vede le pietre, io non so come vengono fuori, io non so manco che cosa significa un disegno, e tutte facce di questi alieni. Torniamo alle campane tibetane, a cosa servono queste campane tibetane? Allora, le campane tibetane sono antiche di 5.000 anni fa. Sì. Le usano i monaci per fare dei rituali. Ecco, ma gli alieni come si sono manifestati in queste campane? Aspetti, le campane, dallo studio che io ho fatto con il mio monaco, io ho un monaco che mi segue, sono delle campane di 7 metalli che si mettono in connessione con i 7 pianeti. Allora, io stavo facendo un mantra molto potente. Come fa sto mantra, scusi? Allora, il mantra è Om Mana Pane Um, che è il rinuncia alla materia. Ah, Om Mana Pane Um, sì, Om Mana Pane, com'è che fa? No, lo dica lei, perché io non lo so. Om Mana Pane Um, Om Mana Pane Um. Sì. Io stavo giocando con le campane, stavo suonando questo suono. Questo mantra? Io gli ho detto alla mia amica, reggi che ti faccio una foto, e si è visto... Cosa? Si è visto questo alieno sulla campana. No. Ma si vede l'alieno proprio? Si vede la proprio foto, il grigio, con la stessa energia bianca, quella dove io sono stata catturata su questa astronave, perché io mi sono ritrovata dentro questa astronave. Quando lei stava su questa astronave, aveva paura o no? Questo ero voglio capire. Ero terrorizzata. Ma è riuscita a parlarci o no? Certo, no. Comunicano con la mente. E che cosa dicevano? Mamma mia, questo non c'è più il tempo, la Terra è in pericolo. Solo questo, la Terra è in pericolo. Ma non c'è più il tempo. E poi mi sono svegliata. Ma lei si preoccupa per davvero che il mondo stia per finire? Beh, ma se hai visto sta roba, non per forza. Non è che sta per finire il mondo, sta per finire... Cosa? La madre terra, cioè i 5 elementi, loro sono in connessione con i 5 elementi, l'energia. Le posso chiedere questo, qualora lei ritornasse in connessione con gli alieni, se può, potrebbe dire loro che Cruciani li prende sempre in giro alla Zanzara, mentre Parenzo no. Cruciani invece posso dire una cosa, glielo dica però, Cruciani prende in giro gli alieni, Parenzo invece Cruciani è talmente simpatico che gli alieni non fanno altro che ridere. Bene, molto bene, questo è positivo. Io però voglio capire, non ha parlato per caso gli alieni dal punto di vista sessuale, non le mettono un po' paura gli alieni? No, ma dal punto di vista sessuale, secondo me. Guardi, sessualmente non lo so se ci ho avuto contatti, perché forse qualcosa mi è successa, ma non è che gliela posso raccontare. No, come no, me la racconti, come no? Posso dire che loro, da quello che si dice, addirittura facciano fare i loro simili a donne, vengono rapite. Io posso assicurare che a me mi è successa una cosa molto molto particolare. Cioè cosa è successo? Scusa. Beh, fatto l'amore con gli alieni. Non me lo deve dire assolutamente, perché a questo punto, scusi, mi sta raccontando una cosa. Che cosa le è successo? È stata rapita dagli alieni sessualmente? Guarda, guardi, io posso dire che ho avuto un periodo delle fortissime emorragie per 3-4 mesi, ma veramente strane, perché cioè, poi violentata dagli alieni? Forse faranno una nuova tecnologia, può darsi che mettono incinte le persone con nuove tecnologie, magari facendo delle cose chirurgiche, come andiamo noi a fare l'inseminazione, per fargli capire. Dopo che mi è comparso questo alieno nella campana, sì, mi sono svegliata, mi sono sentita, dopo un bel po' di tempo è scomparso tutto, sì, e mi sono sentita una voce sulla parte destra con un bambino che voleva giocare e con un altro simile vicino, sono sicura, e mi sono trovata la ferita sulla parte destra e l'ho fotografata. E cosa potrebbe voler dire tutto questa cosa? Guarda, io non lo so, queste sono entità, le entità esistono, non è che ce le possiamo... Allora, io voglio però dire una facciamo cosa. Un attimo un riassunto di 40 secondi, se ho capito bene, le chiedo scusa. Abbiamo parlato di campane di vetro. No, campane tibetane, campane tibetane. Monaci. Un monaco, benissimo. Poi abbiamo parlato di alieni che compaiono nelle campane. Sì. Poi lei sarebbe stata rapita e definita su un'astronave. Addirittura avrebbe avuto, un rapporto sessuale. Due astronave. Poi mi sembra di aver capito, ha avuto anche non un rapporto sessuale, ma comunque ha avuto delle questioni. Se, io non glielo so dire se ci ho avuto. Ecco, non è diciamo che così. Probabilmente ha avuto un rapporto sessuale con questi alieni. Avverti perché ti vuoi svegliare, certo, ma sei terrorizzata, sei bloccata. Bloccata. Dunque potrebbe aver avuto un rapporto sessuale con un alieno. Dunque Parenzo, la conclusione che dovrebbe andare al dottore questa cosa. La conclusione. Ma io gli faccio i nomi di tutti i ginecologi che ho girato. No, per carità, ma più che ginecologi, secondo capire. Ci vorrebbero degli psicologi, psicoterapeuti, psichiatri. Guardi, specializzati. Guardi, l'assicuro che ce l'ha e si è affascinato anche lui delle mie pietre. Ecco, io ne conosco una bravissima che sta a Roma, giovane anche. Conosco una psichiatra bravissima, giovane, che peraltro si occupa anche di cose infantili, per quella più specializzata come psicologa nelle terapie infantili, però magari questi qua, ragazzi, però alla fine si potrebbe scoprire che questi alieni scopano bene, scusi signora Cantonetti, ecco, questa senta, è la solita... ma sono favolosi, lei non sa che cosa hanno di energia, ma lei non se lo può immaginare. Cioè, non mi dica che durante questi sogni lei riesce quasi ad avere un orgasmo. Qualche volta ce l'ho avuto pure in questi sogni, perché no? Ma veramente sta dicendo? Sì, in qualche sogno mi sono svegliata, sì, però gli assicuro che io queste entità le sento. Un abbraccio, cara signora, un abbraccio. Saluti, cara. Siete Tiziana. Simpatici, vi voglio bene, spero che avrete presto un incontro su una strada. No, non me ne frega niente. Grazie, arrivo a mangiare. Spero che siate presto addormentati anche voi. Ma perché io non voglio essere addormentato? No. Arrivare sull'astronave? No. Secondo me, guarda, fra un po' sarete addormentati anche voi. No, arrivederci, grazie. Grazie. Arrivederci, grazie. Però hai fatto un riassunto perfetto, eh? Un riassunto meno male, perfetto. Meno male, un riassunto meno male. Perfetto della situazione. Esther dalla provincia di Milano, vai, Esther. Esther. La sua trasmissione bisogna sentirla per vedere cos'è che ci porta in casa. Noi dobbiamo sapere, no? Sì. Lei è adatto a mandare avanti una trasmissione così? Io le farei un monumento a quel signore che ha detto che lei è lo Zerbino di Sgarbi. Ma sì, lo sa, ma che... l'ho detto pure io, l'ho detto. Ecco, per cui non c'è bisogno, ecco, che lo diceva lei. Lei non si arrabbi, le dia pure della cretina anche a me. No, ma non io dico. Mi invergognerei a se fosse fare in lei. Non ha qualche familiare che le dice di svergognarsi? Ma perché cosa, scusi signora? Ma non sa che lei sia una persona... parla, ma può dire anche qualche cavolata, ma lei fa parlare, non si senta male, solo si sta sentendo che male, parlano di culo, se di non lei se una persona sta... dice una cosa come questo, si deve, prende del cretino e lei poi si... fa propaganda secondo di come la pensa. No, ma beh, in propaganda certa secondo maniera, di come sì, in una certa e maniera. Anche volgarmente. Sì. Guardi, mi dispiace, io ho già parlato con lei un'altra volta. Sì. Ma lei si fa del male a se stesso. Io sono questo un po' è vero, ti però, piace ridere e sentire anche delle signora, cose incorrose, ma questa qua è una trasmissione di censurare e che è lo pornografia Sgarbi. È pornografia pura. Bisogna mettere fuori i manifesti che è vero. È pornografia, bene, signora, è pornografia pura questa trasmissione, signora, è pura pornografia, capito? Pornografia. Pietro da Cesena, vai Pietro, dammi Pietro, dai, dammi Pietro un attimo. Oh, ciao. Dimmi, veloce, senti, 10 secondi, dimmi. Lo so. Io di qualcosa alla signora, di qualcosa di forte alla signora, fagli sentire la presenza della zanzara, la signora di prima, Esther. Dimmi una cosa in 10 allora, secondi, in 10 secondi. Padre, siamo andati a puttane. tu e tuo padre insieme, sì. Fammi sentire bene, parla bene, veloce, 10 secondi. Tu e tuo padre siete allora, andati. Signora Esther, senta Pietro. Allora, senta Pietro, veloce. Tu e tuo padre siete andati a puttare insieme, poi? E poi devo dire anche un'altra cosa, che le donne palestinesi sono delle gran porche. No, vabbè, ho capito, adesso questo che c'entra. Vabbè. Stai andando su un altro terreno. Fermi tutti, a lunedì, ciao. Mi fai parlare, porca puttana! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione. Lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Guarda, tu vai avanti ancora così a offendere i musulmani, no? Tu vai ancora così a offendere i musulmani.